Ricordiamoli che poi dicono che sfrutto gli artisti e non è vero assolutamente. Bentornati alla cena dei Regini. Che grande settimana che abbiamo passato. Adesso perderemo qualche secondo per permettere ai ragazzi di sedersi e di accomodarsi. Siamo veramente tanti questa sera. Non affettatevi col ventilatore perché dobbiamo passare allo spazio delle notizie. Notizie, quello che è successo a Laos in quest'ultima settimana. Settimana ovviamente straordinaria, perché non esiste una settimana consueta a Laos. Assolutamente no. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto il concerto dei Maggie Rin e dei Secret Path, che hanno portato questa loro musica particolare, speciale all'interno del Laos, serata folle, in cui, pensa tu Luca, c'era addirittura un poco terribile a un certo punto, ho visto persone che caricavano a spalla altre persone per buttarle. Ma quello che ho saputo io è che è stato tutto scatenato da Andrea, cioè la gente ha voluto proprio picchiare Andrea. Sì, vabbè, la violenza su Andrea è sempre gratuita e ben accetta. Ragazzi, è stata una serata fantastica, presto i video anche online, straordinaria, la loro intervista, perché ci hanno rilasciato quattro battutine che abbiamo scambiato assieme. Loro incredibili, divertentissimi. E poi abbiamo fatto la serata cinema con torneo di Itarino. E il cinema abbiamo visto che? Shining. No, assolutamente no. Non è vero. No, abbiamo visto un altro film, però comunque abbiamo fatto questo concertino, questo piccolo torneo di Itarino, ci siamo divertiti tantissimo. È vero, chi ha vinto? Io. Non è assolutamente vero, però mi piacerebbe un sacco. È bello pensare che sia così. E ragazzi, continua la vita a Laos. La vita a Laos di cosa è fatta adesso? Di tante nuove amicizie, adesso, di tante nuove. A parte il fatto che siamo tantissimi stasera. Hai visto? Un pochino. È 5 di 5. Perché? Dico perché aumenta il cibo, aumentano le persone. Finché questa cosa, questa equazione funziona, io sono abbastanza tranquillo. Però comunque nuovi amici anche tra i ristoratori che stanno appoggiando Laos, quindi la possibilità per te, anche se hai un'attività qua vicino, di supportare Laos, di fidelizzarti, come si vuol dire, a Laos, e di fare qualche affaruccio qua all'interno. Abbiamo la nostra amica della pizzeria e comunque questi altri che ci stanno dando una mano, e per loro è anche un'occasione lavorativa. Ci sono le due sezioni: sei un artista, contattami, sei un ristoratore, contattami due volte. Oppure non sei a dieta, contattami per venire alla cena, perché ci sarà anche questa terza versione. Quindi ragazzi, facciamo affari assieme, contattatemi se vi interessa il discorso, perché veramente sto andando in giro con la valigetta a scambiare contatti con tutti. E poi il 7 luglio Coi Fortunes, che introdurranno lo spazio musicale, il grande Fortune al singolare, giusto, è importante. Fortune, che introdurranno lo spazio musicale, la grande festa del Tanabata, che è la festa un po' del sogno giapponese, spieghiamolo, perché loro magari non lo sanno. I giapponesi ogni anno, per celebrare questa buona sorte, attaccano i loro desideri con un bigliettino a un albero, che è il nostro albero del Laos qua fuori. Cioè abbiamo fatto crescere apposta un albero, in maniera che ogni anno possiamo fare questa cosa, e ci saranno concerti con questi sciagurati e altri che si esibiranno, uno spazio espositivo per opere d'arte, uno stand di tatuaggi con l'ennè, quindi la possibilità di, come dire, sottolineare questa serata con un piccolo tatuaggio che comunque non è permanente, quindi anche profumato, una cosa bellissima. E poi il cibo, tanto cibo, cibo fresco, sushi, vi dicendo. E per te che ti prenoti adesso, se lo fai adesso, ci sarà un piccolo assaggio di sushi, cioè all'entrata il bigliettino lo vai a dare e ti puoi gustare del sushi fresco a gratis direttamente, pagando in più niente, esattamente niente. Comunque io li devo tenere sempre svegli, altrimenti. Ragazzi, e poi il 4 luglio facciamo un bel concertino qua fuori, il Fable Music Fest. Quindi musica, festa, birra, divertimento e quanto altro. C'è tutto. Ovvio, è Laos. E come dicono in Giappone, non manca nulla, come mi dicono da Tokyo. Non posso andare. Assolutamente sì. Ragazzi, voi restate là, la cena continua. Adesso becchiamoci la sigla e torniamo tra pochissimo. A Laos of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del Regino. ragazzi, la cena dei regini, il bacco.it per seguire tutte le puntate e tornare con noi, cena@bacco.it per commentare quello che andremo ad ascoltare adesso, ovvero loro, i Fortune, ospiti questa sera della cena dei regini. Ciao ai Fortune, un saluto a tutti. Buonasera, quanti. Ciao. Sono grazie circondato dai Fortune. No, assolutamente, grazie a voi di essere qui. Ragazzi, come si mangia la cena dei regini? Prima domanda extra. Tanto. Tanto, tanto è bene. Tanto è bene, voglio dire, segnatelo anche chi è a casa. Ma iniziamo, per chi non ci conosce, una breve presentazione dei Fortune. Dei Fortune siamo noi. Bravo, siamo noi. Già, è una presa di coscienza importante. Ah, meno uno. Meno uno, non c'è da aggiungere un meno uno. Quinto. Avevo una conferenza a Bruxelles, quindi il quinto tartaruganino è dovuto andare. Lui si occupa di fecondazione artificiale tra animali. Fantastico, quindi devo andare lì, studia tanto, quindi non oso immaginare il suo ruolo nel parco. No, è meglio che non lo immagini. No, lui guarda più che altro. Studia tanto, gli facciamo in bocca al lupo a esami. Ciao Francesco, sorridi sempre, non ride mai. Quindi lo salutiamo e noi siamo un gruppo che facciamo cartoni animati, cover Disney, tutto in chiave rock. Fantastico. Riarrangiato da questi omini qua, che sono che sono loro. Sei circondato dai Fortune e noi ti portiamo tanta fortuna, lo speriamo. Ne ho bisogno, soprattutto negli ultimi anni. E niente, abbiamo iniziato questo progetto perché siamo dei bambinoni. Esatto, cioè la scelta di affrontare i cartoni animati è particolare, cioè nel senso è nata da qualche... Sì, la nostalgia e basta. Nasce soprattutto dalla nostalgia, ma nasce durante un viaggio in macchina. Con il tipico CD con i cartoni animati a cantare a squarciagola. Fantastico. E lì ci siamo posti la domanda: ma perché non le facciamo noi? Perché non farle noi? Arrivate a Reggio, riproponendole in un altro modo. Ovviamente, perché voi le rivedete. Diamo un riferimento sul web a chi vi sta guardando e dice: voglio subito andare a vedere chi sono. Guarda, mi posso alzare in piedi? Pagina Facebook Fortune. L'ho messa al contrario, okay. La maglietta originale è questa è il davanti. Perfetto. Siccome devo farmi pubblicità, se ti devi spogliare non farlo. Non lo faccio, no, non va nessuno. Ci sono nella pagina Facebook i miei spogliatori. Fortuna, pagina Facebook, siamo lì, ci sono tutte le nostre news. Quindi vi aspettiamo, insultateci, richieste, fate quello che volete. Bello. Quindi l'avete assoldato come uomo anche a panino, là, come si diceva, bello, bello così. Ragazzi, la fantasia, grande ruolo per la vita di ognuno, ma quale personaggio dei cartoni animati è quello in cui voi vi identificate? Io sono cresciuto con Goku, di Dragon Ball. Vabbè, tutti l'hanno fatto, però a me è rimasta impressa... Quindi se dovessi scegliere... Goku, assolutamente. Goku di Dragon Ball. Sì. Una frase tipica di... Di Goku ti spezzo in due e non era vantaggio. Bene ragazzi, ti sconfiggerò, non sei nessuno. Anche di buffetti al maschiato, sì, sì. Esatto. Io non ho Simpson a Stan. Homer Simpson a Stan, rarissime volte perché lui è so, però è un personaggio vita, che, diciamo. che ti ha colpito perché io Slimer dei Ghostbusters, proprio perché grandissimo, grandissimo, perché comunque è particolare. Sono, sì, anche sono melmoso alle volte. Ora mi vedi solo. È un posto senza fondo pure. Ah, quindi ti riconosci. Un personaggio. Io, Zoro, perché Zoro. Dove si poggia, si addormenta e ti saluta e ti ringrazia. Anche tu hai questa piccola. E tra l'altro Zoro lasciava il segno. Ah no, quello era Zoro. No, quello era Zoro. Zoro. Zoro è in romano. Zoro. La versione romana, ragazzi. Aspetta, c'è il personaggio di Francesco Gangemi che secondo me è Gem. Per la chioma, sì, perché lui ha una pettinatura particolare. Ragazzi, cartoni animati, sigle, venite subito in mente gli anni 80. Gli anni 80, torniamo indietro assieme, macchina del tempo, torniamo agli anni 80. Quali sono i ricordi e le sensazioni che vi vengono in mente parlando degli anni 80? Francesco Gangemi. E lui, per sì, te è lui è l'uomo degli anni 80, si veste da anni 80, parla da anni 80, si deprime, si deprime ora negli anni 80. No, vabbè, a parte gli scherzi, sono nato nell'87, io mi quello che la prima cosa che mi ricordo è solo cartoni. Giustamente. Anni 80 per voi un ricordo particolare? Per me sopra. Anche se non ero nato. Io quando penso agli anni 80 penso soprattutto alle spalline nelle giacche. Quelle che sono esagerate alla Raffaella Carrà dei vecchi tempi. Anni 80. Io penso a Carlo con le spalline. Alla Vegeta. Ed è vero. Io penso a cosa stanno pensando quelli che stanno pensando. Secondo me hanno cambiato. Lo scriveranno, lo scriveranno a cenagioggiobacco.it, lo possono commentare, ragazzi. Sempre siamo rimasti negli anni 80, si accende la TV, quella che rimane, ovviamente che si vede sicuramente, è una grande icona, Cristina D'Avena, che voi conoscete benissimo, è universale, sì, lei, sì, eh? Sì. Una parola da dedicare a Cristina D'Avena, in quanto icona? Entusiasmante, cioè ti mette quell'allegria che ti ribalta le giornate. Una parola. Quindi un fan, entusiasmante. Un fan di Cristina D'Avena. Io? Una cosa che si può dire in radio. Sobria. Lifting. Perché dal 1962 è sempre uguale. Quindi penso se lo sia fatto. È giovane. E quindi se lo sarà fatto il lifting. Ma magari mangia vegetariano. Tu? Di Cristina D'Avena. Lei è Cristina D'Avena. Cristina D'Avena. Come vedi sopra. Il lifting, che l'idea di lifting che si sarà fatta c'è per anche Giorgio Giovanni, ma quello è più moderno, però l'abbiamo conosciuto, ed è una persona alla portata di mano, umile, e l'umiltà oggi è difficile. Esattamente, proprio per questo motivo immaginiamo adesso, tornando nell'era attuale, Fortune sindaci per un giorno di una città italiana, putacaso Reggio Calabria. Proprio diciamone, Reggio Calabria. Diciamone una così, Reggio Calabria, dai ragazzi, qual è la cosa che fareste prima di ogni altra? Cioè, quell'azione da attuare subito. Subito? Cacciamo tutti i politici che ci sono adesso. Mi fregherei i soldi con tutti i politici. Quindi, cacciare i politici, fregarsi i soldi con tutti. Dopo che abbiamo cacciato i politici... Comprerei sotto zero. Comprassi sotto zero. Inizierei a riempire le buche. Riempire le buche. Qualsiasi cosa, però. Ma normale. Con altre buche, un cassetto, con DVD. Ma lo fanno già questi. Ma non su tutte. CD d'Alessio. E quindi curare la strada, l'asfalto, curare gli affari personali. Il bando è cambiare la classe politica. E curare l'interesse di tutti cambiando la classe politica. Si dice sempre così. E con ogni politico dice questo e poi fa esattamente questo. Votate Fortuna alle prossime elezioni. Esatto, ci per avere esattamente la città per come adesso. Sponsor by Cristina D'Avena. Ragazzi, saranno con noi il 7 luglio per il Tanabata, una serata magica anche grazie a questi ragazzi. Voi continuate a seguire la cena dei regini, noi salutiamo Fortuna con un applauso perché lo merita veramente. Divertentissimi e qualsiasi cosa inissimi che vi venga adesso in mente. Intimissimi. No, magari. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale. All I need is a cam to record it for you. Show you what I'm talking about. You know I had to make this song right here. You know I had to make you girl. Why complain about the cold when we got the most beautiful ladies from all over the globe? This song is dedicated to all of y'all. Whether you were black or white, short or tall, brunette or blonde, slim or thick, stressed or calm. But I'm not talking about those with a bad attitude wearing hoochie clothes. Don't know how to talk, act like a man and spit when they walk. I'm talking about the classic types with a proper outfit when the smile is like God sent down announcements for all men to behave. Funny C10 and get straight right away. Our ladies, all it takes to get some order up in the place. When the sky's dim, she put a smile on your face. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. Nothing is better than summertime. Chill downtown with some friends of mine. Drinking soda, admiring all the ladies at the bus stop right in front of us waiting. Giggling, playing with the hair And with no day of wait, I was there. It's kinda cute though, with the innocent look when they know we're checking out the culo. Sweet top side jeans, high heels and a matching bag. All it takes for me to start a act. I love it when they're playing hard to cash. Won't even give out the number to the start of rap. Says no, with a twinkle in the eye, I won't lay low. I've been singing for a while, smiling to my camcorder, so I can't show them what I mean from Rome to California. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. Favorite spot is a shopping mall, buying ice cream, turning my iPod on, kicking back, observing nice things. Every other minute it's like being hit by lightning. It's a beautiful sight to have happy girls to the left, in the front, to the right. Nothing makes them feel better than having cheddar to spend, walking out the store with two bags in each hand. Damn, girls, what the names be? Lisa, Maria, Stephanie, pose for my cam before you're leaving. I'm on the mission to show the world girls from Sweden are the most delicious. So that they give no reason for people to be suspicious. Why you want it? Blow some kisses. We got the finest ones, now I got the whole world as my witness. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. That's right, y'all. That's right. So all your fellas, next time you step outside, just take a look around, then you understand what I'm talking about. Hey girls, let's roll. Ragazzi, la Cena dei Regini, bentornati, questo è l'angolo delle notizie, perché ci sono notizie che tu non puoi assolutamente perdere nella tua vita, le più fresche, le più intriganti, noi le raccogliamo e te le propiniamo in questo angolo commentandole assieme ai ragazzi che sono ospiti della Cena dei nostri commensali. Iniziamo. Qual è la maniera migliore di iniziare la giornata? Come si insegna, un ottimo caffè. Assolutamente. Ma un'altra maniera potrebbe essere... Non sei la gastrite. Se la gastrite no, però se sei in bacco 5-6 io modestamente abuso una doccia. Pure una doccia per rinfrescarsi, cioè, alzarsi col piede giusto, come si suol dire, alzarsi col piede giusto. Ballare, e per alzarsi col piede giusto c'è un orario esatto in cui secondo questi ricercatori è giusto prendere il caffè, e cioè nel senso il caffè rende al meglio ed è tra le 9:30 e le 11:30. È l'orario in cui comunque il corpo assume meglio la caffeina e quindi entra meglio in circolo l'effetto del caffè. Pensa che un neuroscienziato, Steven Miller, ha sprecato il suo tempo per definire questa cosa, cioè tra le 9:30 e le 11:30 quella tazzina di caffè nel tuo corpo ha una marcia in più. Posso fare una domanda a Steven Miller? Ma se noi lo prendiamo alle 9:30, alle 9:30 alle 11:30 non c'è il pericolo che faccia effetto e tu mentre sei al lavoro devi scappare a casa e quindi quello, perdi il lavoro. Quello è un effetto collaterale che Steven Miller penso che non abbia preso. Però bisogna tenerlo presente, io spero che comunque chi assuma sappia questa cosa. Comunque dice, soprattutto per i caffè dipendenti, tra le 9:30 e le 11:30 c'è la golden age, diciamo, nella giornata, per cui è meglio, bisogna iniziare così subito alla grande. Ragazzi, per iniziare alla grande bisogna anche saper gestire la propria vita in una certa maniera. Se si è all'interno di un carcere e si ha a disposizione delle saponette, cosa si può realizzare? Aspetta, un torneo di porno, secondo me. Taglia, ok, questa. No, vai, tranquillo, tranquillo. Non ce l'ho fatta tanto. Quindi tu la saponetta e carcere. Se ti cade la saponetta non la raccogli, se no sei no, e invece c'è chi l'ha raccolta, e la raccolta ne ha addirittura fatto una collezione. Lui era, non è stato reso, era un vero fan del mitico John Dillinger, il famoso tizio che scappava dalle prigioni. Lui ha raccolto queste saponette durante la sua prigionia e ha plasmato una pistola finta con cui ha cercato di fuggire dal carcere. Che tra l'altro con le saponette, tra l'altro un risultato abbastanza così. Carina, dai! Una specie di, come si chiama, il Derringer, questa versione piccola, e lui ha tentato la fuga, pensa tu. Quanto è durata? No, pochissimo, perché gli è fallita subito. No, per qualcosa le carcerate non sono più lavate. Ma si vede che il sapone già non era richiestissimo, perché l'ho raccolto dopo questa cosa, sapone liquido per tutti, già. Ragazzi, perché comunque bisogna sapersi adattare anche nella vita. Però pensa, plasmare una... L'effettività è unica. Mi sembra che in un film di Pozzetto succedeva una cosa analoga con un carcerato che raccoglieva delle briciole di pane e assemblava una pistola finta. Mi sembra che fosse Pozzetto una rivisitazione, comunque si chiama. I gloriosi anni 70 del cinema italiano. Ragazzi, invece la modernità è anche la tecnologia che a volte fa qualche passo in avanti di troppo. È capitato a Facebook in questi giorni, perché è stato rivelato un esperimento che ha fatto Facebook per circa una settimana: 700.000 profili Facebook spiati per essenzialmente plasmare la notizia di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Cioè Facebook spiava i profili per definire quanto l'umore dei post che noi vediamo incide sul nostro umore. Ed effettivamente è così. E quindi noi vediamo su un post di Facebook una persona felice, noi siamo felici. Noi vediamo una persona triste, noi siamo tristi. Noi vediamo su Facebook cosa si vede. Tra l'altro non so, spiavo. Si vede. E siamo potenti. I profili venivano proprio modificati ad hoc, in modo che sullo stesso profilo comparissero soltanto notizie negative, mentre su un altro solo notizie positive, e poi si vedeva che effettivamente cambiavano le reazioni anche di chi leggeva. Quindi pensa, quando tu vedi un gattino hai voglia di miagolare, che si vede che il gattino è fatto. Vedi un maiale e hai voglia di mangiare. Oppure di altre attività che lasciamo stare. Ma ragazzi, lei si chiama Teresa Fidalgo ed è una star del web. Questa ragazza che ha fatto semplicemente è morta, o almeno così si suol dire. Semplicemente è morta. È morta in un incidente stradale ed è stata, come dire, questi ragazzi spagnoli hanno dato questo passaggio a questa ragazza che dice di chiamarsi Teresa Fidalgo, e li porta nel punto in cui ha avuto questo incidente. Questa leggenda metropolitana del fantasma di Teresa Fidalgo, sì, ovviamente sì, è una bufala, però ha scatenato tutta l'utenza del web, arrivata a picchi di notorietà incredibili, grazie anche a una newsletter, a un giro di mail che ci è venuto ultimamente. E quindi Teresa Fidalgo è attualmente la star del web di questi mesi. Cosa volere di più? Un fantasma? Davvero, anche il cagnolino si sta ribellando. Il fantasma del cane è morto. Speriamo di no. Teresa Fidalgo. Cioè, se tu incontrassi. Il massimo risultato col minimo sforzo. Vedi, bastava morire. Morire, che fai? Oggi muoio. Perché vuoi diventare famoso? Diventi subito una star del web. Ragazzi, andiamo verso l'angolo da bollino rosso, però c'è un intermezzo che è molto importante, che sicuramente scatenerà le passioni femminili, perché noi sappiamo che questo spazio è molto... Ma ricordo l'ultima volta che è successo. Ci proviamo. Allora, nella coppia, tutta caso formata da uomo e donna, secondo voi chi comanda? La donna. Chi comanda o chi crede di comandare? E intanto parlo. È finita. Ho capito. Sì, la donna. Ma in cucina o? All'interno in lavoro. Posso dire una cosa? È il posto di testa, ragazzi, aspetta. aspetta, arriviamo subito perché... E adesso mi prendere da qua del lato. Comanda l'amore. L'amore. Ragazzi, invece diamo intanto la notizia. La notizia, secondo Elizabeth Bates, quindi sottolineiamo donna. Bates. Ovviamente dell'Università di Cumbria ha condotto questo studio. Secondo, le donne sanno essere delle vere terroriste intime, cioè all'interno della coppia è stato studiato che la donna non solo comanda ma ha anche questo ruolo di terrorista intima, cioè nel senso che sa pungolare l'uomo a un livello psicologico tale da dominarlo. Vi risulta? Mentre sei hai il coltello dalla parte del manico, come si suol dire, tu dici. Può essere che anche durante diciamo l'atto che film c'era stasera, ma è lì è finita. Oh, ma il terrorismo comincia molto prima, quando io non te la do per 2 mesi. Ragazzi, quello è il problema. Io per continuare la battuta, oltre che il coltello anche nella pentola. Vedo che abbiamo grandi un esempio di terrorismo prematrimoniale. Cioè, e quando incomincia ad abituarti a fargli i regalini, ragazzi quando incomincia a farti i regalini, no? Perché non è che ti può dire amore voglio quella cosa, no. Ti porta nel negozio, amore guarda che bello quello, che bello, e tu devi interpretare. Assolutamente, devi stare attento a ogni minimo segnale. E se non lo fai è finita, quella, questo è un sorriso, questa è una risatina che soprattutto in gioielleria. Aspetta un attimo, in gioielleria questa cosa funziona, cioè ti riesce? Che... No, non mi riesce, però diciamo in generale, comunque ci provo, portare la cosa e dire vediamo. Questo è quello prematrimoniale. Quello matrimoniale è quando la domenica tu che lavori tutto il giorno sei seduto e dico amore ma lo sai che il supermercato è aperto? E tu dici ma staranno fallendo se aprono pure la domenica? E invece la linea. Un po' di tempo fa mi prendevano per pazzo quando dicevo si parlava di femminicidio, uxoricidio, chi più ne ha più ne metta. Ok, è un atto assolutamente squallido. Ma andiamo all'analisi vera del problema, cioè la causa, perché quello è arrivato a ammazziare, a uccidere? Ci sarà stato un pressing molto alto, sclero per me. Però non è mai giustificabile, dai. Per me che stasera è meglio se cominciamo a mettere i lenti. Non è mai giustificabile. No, ora facciamo un sondaggio. Sei fidanzato, sei sposato? Personalmente no. Ancora no. Ragazzi, chi ha i letti sono a disposizione, 10 euro ciascuno perché deve tornare a casa sfidanzato. Ragazzi, andiamo avanti, stavolta bollino rosso, ci vuole lo spazio delle notizie un po' piccantelle, quelle là più particolari. Non tutte le donne hanno il coraggio di affrontare la prova topless. Non tutte le donne, perché si sa, da come ne parla è una cosa talmente... E quindi un gruppo di femministe viene incontro al problema topless delle donne lanciando una serie di costumi che praticamente è un finto carne sul quale sono stampati, diciamo, i dettagli intimi delle donne, e quindi sembra di avere il topless anche indossando questo costume. A soli $28 tu puoi sfoggiare un topless invidiabile. Comunque tu nel senso la tu donna... Io sì, ma io non ho la conformazione infinita. Cioè se voi vi sentite pronte al topless? Certo. Sperate alle ragazze. $28 per un finto topless. Non lo comprerei. Niente. Lo farei. Niente. Un finto. Ma assolutamente non deve essere. Poi a casa, ma me lo compri. No, non me lo compri. Ma quello di Felba, che è interessante però alla fine. Ma poi viene col tuo account di comprato. No, speriamo però che questi $28 vanno in beneficenza per la ricerca contro il cancro alla mammella, quindi c'è anche... Allora, compriamoci già abbiamo un acquirente, quindi giusto, comportiamoli. Dovrebbero inventare il tripales. Ho facessero il push down per gli uomini. Ti spingere la trippa verso in zone che possono essere quindi tra l'altro troviamoci. Va bene per quella notizia dell'altra volta, quella del Bitcoin, no? Beh, una entra direttamente in bikini e compra tutto il negozio e si compra tutto così gratuitamente al volo. Quindi lanciamo il tripless, questa pancera con disegno di addominale scolpito, proponiamola per le prossime cose. E questa era una notizia positiva per le donne. Se volete sfoggiare un topless, sebbene è un attimo fittizio, potete farlo. Ma adesso ragazzi, un'ottima notizia per gli uomini, l'ultima in chiusura, perché poi comunque ci sarà sicuramente molto da dire. È stato accertato a livello scientifico che il sesso occasionale fa bene alla salute. Oh. Un già... applauso al sesso occasionale. No, no, tu lo faccio a loro, lui no, sono io. Abbiamo ma quando c'è l'occasione, tipo prendi tre, paghi due. Però ragazzi, pensiamoci, perché comunque è stato accertato scientificamente che aumenta l'autostima, hai meno ansia, hai meno depressione. E l'effetto Don Giovanni comunque ti avvantaggia in tutti i rapporti, si chiama effetto Don Giovanni questa cosa di avere questi rapporti, in tutte le situazioni della vita, quindi ti permette di rendere meglio al lavoro, di essere più sicuro di te stesso e via dicendo, quindi pensiamoci, no? Far ridere sereno. Questa sì. Notizia, penso che darà parecchi Francesco, spunti di riflessione. Prendi il punto, occasionale, dai. Diamo questo input sì, anche a lui, che da casa si deve riprendere un pochettino. Secondo voi cosa ne pensate di questa notizia? Le donne già sono sconvolte, lo stanno per menare. Infatti ho detto, è l'ultima notizia, così poi saprai. Ma poi io scappo. Sarai vittima sacrificale di questa cosa. Quindi prima delle cose, secondo voi funziona o non funziona? Beh, ma più che altro una scelta personale, poi per chi vuole una vita del genere. Quindi tu dici così. Io gradirei il zoom sulla faccia di Patrizio. Stavo ragionando senza i segni. Sinceramente non è. E qui si torna al discorso del lusso ricidio che facevo io. Cioè tu dici da entrambe le parti può dare questo beneficio, perché non è sconvolgente. Certo, il trip adesso potrebbe aiutare, perché un uomo si mette l'addominale finto e va, e poi così. Il trip adesso. Ragazze, cosa ne pensate? Sesso occasionale aiuta? Ma probabilmente sì. Cioè, anche al femminile? Abbastanza logico. Anche al femminile, quindi può dare una spinta in più, come si suol dire. Ragazzi, una volta di vita. Non dovete andare a cercare le sottigliezze. Dai, semplicemente espresso quello che tutti quanti pensavano. Ce l'abbiamo fatta, bravo. Siamo arrivati alla fine dell'angolo delle notizie. C'è una chiocciola del bacco.it per commentarle, il bacco.it per riascoltarle tutte, perché magari dopo aver sentito queste vai a cercarti quelle le settimane scorse. Un piccolo spazio musicale e noi torniamo dopo con la classifica. Mi se c'è il cellulare da solo non ci arriveranno i messaggi, vedi se ci sono delle storie. No, look at these, and everything crashed. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini con l'angolo della classifica, cioè 11 cose, in questo caso 11 invenzioni, che possono essere state promosse o bocciate dal Novecento, perché comunque non tutto quello che viene prodotto dagli scienziati ha un successo, così come ci sono cose che magari poi nel tempo si riscoprono. E vediamo queste 11 invenzioni che comunque il tempo ha promosso o bocciato. Iniziamo. Dalla prima, era un modello straordinario della cosiddetta bicicletta familiare. Qua ne vediamo una foto bellissima, cioè padre e figlio che pedalano, la ragazzina davanti è una specie di bicicletta a due piani, la ragazzina davanti che si gode la passeggiata e addirittura la madre che grazie alla pedalata riesce a cucire con una macchina tipo Singer delle tempi. Tutto questo accrocco riuniva la famiglia che andava insieme in questo trabiccolo, pensa tu. Fare le cose a casa che non lo fanno sulla bicicletta. Tipo. Pensate ragazzi, la domenica il padre di famiglia, dai, andiamo a fare una passeggiata in bicicletta, c'è una sta cosa. Col fornellino tipo lungo lo stesso. Avreste aggiunto il fornellino, giustamente, per. Perché comunque un momento per ritrovarsi in famiglia, perché no? Tra l'altro, Noi che a Reggio abbiamo una tra l'altro famosa... sto notando che la mamma è il famoso reggiseno che parlavo. Guarda come all'occhio lungo la mamma tra l'altro degli ultimi 900, non so neanche appunto di qua attizzare. Però ragazzi, andiamo avanti. Era un'invenzione straordinaria del 900, la maschera da bagno Total Face, per proteggere la faccia dai raggi del sole. Quindi cioè, come la descriveresti tu? Sembra un uovo di Pasqua. Era una maschera totale, è inquietante, che lasciava solo gli occhi liberi. E due buchi per le narici, permetteva alle donne di stare al sole senza scottarsi il viso. A me sembra un qualche maschera d'assassino seriale dei film degli anni 90. A me sembra Rey Mysterio. Una maschera tipo. È tipo Rey Mysterio, una cosa del genere. Inquietante. Ed è stata bocciata, penso tu, la storia. Perché se uno esce con quella maschera di casa... Non però stai in spiaggia in così, caro. Com'è questa cosa? Ormai le donne vogliono diventare nere, cioè si vogliono abbronzare meglio ormai. E quindi tu dici, forse è stato questo che non gli ha permesso di andare avanti. Perché ragazzi, comunque, diciamo, era anche un po' ingombrante come cosa. Però ci sono anche scoperte, invenzioni che poi il tempo ha promosso. Ad esempio, nel 1963 venivano inventati gli occhiali televisione. Questi occhiali con tanto di antennine che permettevano di guardare la televisione indossandoli con questo schermino e questa rotellina per poterla sintonizzare. E solo ultimamente i Google Glass li hanno promossi, cioè come a dire a distanza di tempo. Pensa tu, ti guardavi la Rai con le cose... Oppure ti guardavi la partita... Gli altri anche avevano nulla. Mentre guidavano, si diventa magari meno di 5 minuti. Infatti, questi sono quelli che al tempo avevano gli occhiali a fondo di bottiglia grossi così. Perché era importante, però comunque la varietà, il carosello, ad esempio, quanto è bello guardare il carosello con gli occhialoni della televisione, no? Anche lui online, insieme agli attori. Era importantissimo, così come ci sono. Invenzioni che avrebbero fatto grande successo adesso, ma una volta purtroppo non hanno funzionato. Una di queste era il bussatore. Cos'era il bussatore? Ragazzi, il bussatore cos'è? Secondo voi, cioè, il bussatore. Quella che entra nella porta che menavi per... No? Quello c'è ancora. Quello è il cosiddetto battacchio. Battacchio. C'è ancora. Il bussatore, ragazzi. Cos'è il bussatore? Cosa? È un oggetto che bussa al posto tuo, esattamente, ma soprattutto era il bussatore era questa specie di palo, diciamo così, con questa manina all'estremità, e c'era il tizio che veniva a bussarti alla finestra per svegliarti se avevi un appuntamento. Quindi tu gli allungavi 2 euro dell'epoca e gli dicevi, senti, alle 4 mi devi svegliare. E lui veniva. Ma tipo il crocettista sul treno. Si dimenticavi di mettere la sveglia nell'altro. Perché era anche il 1923, quindi voglio dire, era un po'. E questo può essere stato promosso grazie alla sveglia dell'iPhone. Ma ragazzi, c'è anche un'invenzione che è stata assolutamente promossa, ed è l'antenato del GPS. Nel 1930, secondo voi come poteva funzionare un GPS nel 1930? Erano già un tizio accanto a te che con la mappa ti dice dove andare. Quindi... il baracchino, quello là è bellissimo come invenzione. Come si chiama? Tipo walkie talkie, dice. Tipo 600 no. Persone che pensavano una persona. Lui giustamente dice il cosiddetto, possiamo chiamarlo il navigatore personale, cioè un tizio arruolato da te per dirti vai a destra, vai a sinistra. E poi il filo di bacche. Abbiamo trovato persone che venivano assunte per bere con il proprio padre. Sì, sì, a questo punto potrebbe funzionare. Invece no, esisteva una cartina stradale che con scorrimento automatico, cioè era queste due rotelline, sì, diciamo, che scorrevano permettendoti di guardare il proseguire della strada, invenzione assolutamente inutile all'epoca, perché voglio dire, se si sente certo. questo rotolino di carta che scorre, e dico, no, quando vai non l'abbiamo ancora fatta, aspetti che aggiorno. Penso agli aggiornamenti, perché tra l'altro scorreva solo in una direzione, quindi dovevi impostare tipo Salerno-Reggio Calabria, ti veniva tutta così. E poi pensi, il tempo però l'ha promossa, perché se oggi ci sono i navigatori satellitari, il GPS e via dicendo. Ma ci sono grazie a questo sicuramente? Ovviamente. Assolutamente sì, il capostipite è stato questo. Canzionato. Nel 1950 era di grande moda e poi è stata bocciata indegnamente dal tempo. Il distributore di whisky ghiacciato, che ti permetteva di consumare il whisky con dell'ottimo ghiaccio nel bar oppure accanto al jukebox dell'epoca, e poi è stato bandito, tra virgolette, cioè bocciato dalla cosa. Ma anche col fatto delle birre, le consumazioni diverse, il whisky è rimasto poi un elemento più da bere così diversamente, eccetera, no? Ma un distributore, una bevanda che si vorrebbe trovare. Io vorrei, no, distributore di bevande, distributore di patatine, quelle bianche. Patatine bianche. Quelle là. Un distributore? Birra. Che ci vorrei di birra? Caramella. Distributore di caramelle? Distributore di Nutella. Di Nutella, tipo bella come bello, tipo gelato. No. Meglio che non lo dico. Ok, accetto lo stesso. Un distributore di armi? Quello in America mi sa che c'è già. E poi io dico sempre la fontana di Coca-Cola, prima o poi la costruirò. Ma ragazzi, una cosa che è stata bocciata negli anni nel 1914, pensate, esistevano i cosiddetti Pink Boys, perché si giocava già a bowling, ma non esisteva tutto il macchinario che ti rimetteva i birilli assieme. Allora come facevano? Sciagurati. Assumevano dei ragazzini che ogni tiro dovevano, cioè stavano su un trespolo, scendere, rimettere i birilli e si risalire sul loro trespolo. Questo metodo ci sarà ancora in Cina. Una partita durava 6 giorni. Perché beccavi il ragazzino un po' più svogliatello e quindi ci metteva di più. Però pensa, i ragazzini sfruttati per fare questa cosa. Che tempi incredibili. Invece poi la tecnologia ci ha permesso di sfruttarli per i palloni e per altre cose. Per così hanno più tempo per ammazzarmi di botte. Esatto. Anche per far girarti la televisione. Mi cambi canale visto che sei in piedi. Assolutamente. Casa sua deve essere un posto spettacolare. Ma ragazzi, esistevano già nel 1936, quando sono stati inventati i garage verticali. Il garage verticale. Dicesi garage verticale. Un garage verticale. Era un garage per Silvio. No, sono garage a terrazzamenti. Parcheggio, poi c'è uno che gira la manovella. Ai tempi c'era la manovella, okay. Cioè tipo ascensori che vanno a infilare le macchine nei posti per quello che ha parcheggiato per primo, cioè l'ultimo. Deve scappare. Sono guai, deve avere un attimo di pazienza perché comunque deve arrivare. Però col tempo è stato addirittura promosso, perché comunque è una cosa. Anche nella macchina l'ha detto. Nelle case milionarie, ovviamente, le possono fare queste cose. Ovviamente. Ma ragazzi, questa sera abbiamo la fortuna qui di avere tantissimi artisti. Allora io vorrei chiedere: c'è un metodo quando vi dovete concentrare per scrivere una canzone, una poesia, un qualcosa? Cioè, avete un metodo per isolarvi dal resto del mondo, per trovare l'ispirazione? Qual è? In bagno, vai in bagno e lì bagno, escono il le bagno. Lei si incazza con me, quindi il conflitto che poi crea può essere. Mettersi a testa in giù. Io faccio come se non lo dico, parte secondo. Io faccio come Salvador Dalì. Non è che sono Salvador Dalì, però dico Salvador Dalì aveva un metodo. Metteva una tazzina e vicino alla poltrona, lui si addormentava, teneva una chiave in mano, quando stava per addormentarsi la chiave gli cadeva dalle mani, suonava nella tazzina e lui si svegliava. In quel momento, diceva lui, gli aveva il massimo dell'ispirazione, perché sei in una fase di dormiveglia. Io invece faccio tutte le canzoni, le faccio alle 4 di notte, te lo vuol dire lui che gli mandi messaggi, lo sveglio. perché ogni tanto mentre dormo folgorazione. E quindi ti viene tutto bruciato, so. Bella questa cosa, bella. Per me le canzoni si fanno. Cioè la notte, nella serenità della notte, nella. Perché la notte porta consiglio. Vedi, vedi. Altre idee? Io mangio un gatto. Lui mangia un gatto. Ma te l'ho detto io. Ragazzi, invece pensate, se aveste avuto l'occasione di essere artisti nel 1925, avreste avuto a disposizione il famoso isoleto, l'isolatore. Che cos'era? Era un casco tipo scafandro che tu indossavi, con tanto di bombola di ossigeno che ti permetteva di stare totalmente isolato dal mondo. Aveva solo questi due occhi. Per me mi è reduto di Batman. Questi oblò per guardare il mondo e basta, perché per il resto non si vedeva assolutamente nulla, addirittura là il boccaio per l'ossigeno. Pensa che bello, indossi una cosa del genere, per te è come se fosse sempre notte, scrivi a raffica, a manovella. Proprio perché cose. Non avevi dove scrivere, che non vedevi niente. No, ma mai le cose, ti devi solo concentrare per beccare il punto giusto. L'isoleta purtroppo è stato bocciato. Pensa tu, ma veramente è un'altra. Anzi, io propongo una petizione per ripristinare. Per ricostruire l'isoleta, rimettiamo nel commercio, che mi raccomando. Nel 1921 e poi addirittura è stato, ha fatto scalpore, cioè ha fatto storia all'interno di queste soluzioni carcerarie. Fu inventata la prima Harley Davidson. La saponetta che rimbalza. è rimasto toccato dalla cosa. La prima Harley Davidson con un gabbiotto per trasportare i detenuti. Un gabbiotto per trasportare, cioè tu avevi nel sidecar questa gabbia, mettevi il tizio là dentro e te lo portavi in giro in mano. Ma cosa gli attivava il tirato un pugno? Cioè le barre erano abbastanza strette in mano. Ma tu eri in moto. Allora sì. Stava la minima oscillazione per un disastro. No, guarda. Perché era un sidecar e quindi si poteva andare. Capisci? Pratico modo per portare pure i bambini a spasso. Hanno già, invece questo è stato il precursore di tutti poi quei sistemi carcerari, tipo i vari cellulari, i cosiddetti penitenziari, che adesso si vengono usati ancora oggi. Pensa tu, fu un Harley Davidson a essere il primo strumento. E poi ragazzi, l'ultima grande invenzione, purtroppo bocciata. Infatti, i giapponesi, un'invenzione giapponese, questa macchina si chiamava Cat Mew ed è una macchina che praticamente emulava le funzioni di un gatto, cioè i richiami che fanno i gatti per scacciare i topi. Quindi ti attaccavi questa macchina, tra l'altro aveva anche una bella testa di gatto fatta. Testa di? Gatto. Oh. Riprodotta sulla plancia, tu la attaccavi. Secondo me avrà avuto proprio l'effetto o totalmente contrario, oppure avrà raccolto tutti i gatti del vicinato che sbagliavano a sintonizzarla e chissà che veniva fuori. Ragazzi, quante invenzioni sono purtroppo finite nel dimenticatoio? Pensiamoci. Quante non dovrebbero essere state inventate? Quante? Ad esempio la bomba atomica, una tra tutte. Io dico l'ultima che ho letto, che è meglio. Malgioglio. Cioè? Giapponese. L'ultima cosa inventata. Non vuoi averla qua. Posso chiudere? Dillo. Vabbè, il gelato a liquido terminale maschile. Va bene, ragazzi. La cena dei regini, il bacco.it per guardare tutte le... La migliore invenzione è il bac, dai, lo diciamo che è il bac. Meno male che c'è lui. Meno male che non è giapponese. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con la cena dei regini, il bac.it per seguire tutti gli eventi che sto organizzando in questo periodo e per ascoltare tutte le puntate della cena dei regini. Un saluto a tutti dal bac e dai ragazzi della cena dei regini, un applauso. Seguire l'unica trasmissione del pianeta Terra Regino. Un saluto a tutti, ciao! Ciao!